9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, oggi provo a non deliziarvi con le mie 3-4 urla iniziali, ve le dico a voce bassa per così dire, perché alcuni ascoltatori protestano perché dice ma non si sente bene. Vabbè, allora mentre sfumiamo, auguri a chi si chiama Donato perché oggi è 22 ottobre. Le cose che mi hanno colpito di questo fine settimana, ma ve le metto così, va. Cominciamo dai giornali di oggi. La notizia del fatto che in questi primi 9 mesi dell'anno ci sono stati frodi allo Stato per 3 miliardi, cioè gente che ha preso 3 miliardi di euro ma non ne aveva i requisiti, è una bella riflessione, se permettete, l'ho trovata sul Corriere della Sera. I finti poveri che costano 3 miliardi, è una bella riflessione su come alla fine la pubblica amministrazione e la politica con regole discrezionali corrompa inevitabilmente una parte crescente della società italiana. Ed è questa la ragione per cui per 10 anni, 20 anni, 40 anni ci siamo tutti girati dall'altra parte, perché una parte di noi crescente ha detto c'è la greppia, ma non c'è solo per loro, ce n'è anche per me. Ecco, rifletteteci su quello, perché poi bisogna che poi quando diciamo che la società civile è migliore, bisogna che sappiamo distinguere tra una società civile che ha consapevolezza di questo e dice basta, non li voglio i soldi finti, e chi invece dice sì vabbè, io intanto me li sono presi e me li prendo, quelli per la cui discrezionalità, non avendone titolo, dovrò chiudere un occhio al fatto che siano i politici e la pubblica amministrazione a fare la stessa cosa per loro. Prima pillola. Seconda pillola, l'altra faccia della medaglia, questa la trovate sul Messaggero. Invece il Messaggero, nel mentre vi avvisa e vai conti in tasca, giustamente dal fatto che crollano le nuove pensioni, perché gli assegni liquidati scendono del 35,5% anche senza l'effetto della riforma Fornero, e un'altra stretta ci sarà nel 2013, e guardatevelo perché è un dato su cui riflettere per il futuro della previdenza. C'è invece un bell'articolo sempre sullo stesso giornale sul fatto che naturalmente le regioni in materia di riforma del vitalizio non ci sentono, c'è poco da fare, non ci sentono, e c'è una tabella quindi con la gran parte delle regioni per le quali mentre crollano i nuovi assegni della previdenza gli assegni di vitalizio ai consiglieri regionali resteranno, tanto per cambiare. Terza pillola, lo scontro a coltello nel PD questo fine settimana, argomento le Cayman, perché Davide Algebris, giovane finanziere italiano a Londra che conosco dall'inizio degli anni 90 e di cui ho la massima stima, con la massima stima, perché è sempre stato capace di fare analisi dei fondamentali delle grandi quotate italiane, mettendosi alla testa di battaglie per il rinnovamento e il cambiamento anche del ciò che non va nelle grandi quotate private italiane. Davide Algebris, siccome ha avuto il torto di portare gente della comunità finanziaria a ascoltare Renzi, si è beccato una rasoiata da parte di Bersani, ispirata da Fassina, che dice: gente che sta alle Cayman non dovrebbe farci la filosofia. Allora, naturalmente è di pronto effetto questa battuta, però naturalmente testimonia lo squilibrio e, perdonatemi, la disonestà intellettuale delle classi dirigenti italiane, perché Davide Algebris amministra fondi dove sono i clienti a scegliere la base fiscale e il Cayman si paga di meno, ma i redditi di Davide Serra sono regolarmente tutti fino all'ultima sterlina pagati in Gran Bretagna, dove lavora e opera. Quindi questa battuta a effetto testimonia la melma di cui è impregnata la mente di molta politica italiana, ed è all'interno dello stesso partito, pensate un po', all'interno dello stesso partito, ed è chiaro che il tono a questo punto inizia a infuocarsi, perché poi anche Renzi ieri ha risposto dicendo: il mio è un PD del 40%, il tuo è del 25%, caro Bersani, fatevi i conti. Vedremo come va a finire. Non voglio ulteriormente appesantire questo inizio di trasmissione. Oggi ho deciso di occuparmi di Sicilia, perché si avvicina ormai tra pochi giorni il voto regionale di questa regione, e a puntuale riconferma di quello che abbiamo detto dell'intreccio tra connivenza e distrazione, a proposito del fatto che sono molti miliardi che finiscono nelle tasche degli italiani senza diritto, ed è questo ciò che poi spinge loro a non usare un metro molto pesante nel giudizio di politica e pubblica amministrazione, che fa la stessa cosa. A me pare che ancora una volta un metro analogo lo abbiamo riservato come comunità dell'informazione alle elezioni regionali siciliane. Ce ne siamo occupati a livello nazionale, sui giornali, sulle televisioni, pochissimo, praticamente quasi nulla, come se la cosa riguardasse una parte estranea all'Italia, non una delle più importanti regioni con i più importanti problemi storici e con i più importanti segni di trasformismo e di degenerazione della politica, quale è la Sicilia, dimenticando che avanza per esempio 17 miliardi di crediti che sono inesigibili, eppure secondo la contabilità pubblica di quella regione questi avanzi testimonierebbero che il suo bilancio regge, mentre invece è tecnicamente fallito, eppure facciamo tutti finta di non guardarla. Questa cosa è una regione che è andata al voto con i capi del PDL che hanno cambiato, prima di presentare le liste, 3, 4, 5 volte posizioni e alleanze tra di loro. Michiché doveva essere lui il candidato, dopodiché ha premuto perché fosse Musumeci, ex AN di Catania, dopodiché 24 ore dopo che il PDL aveva detto sì Musumeci, lui ha ricambiato idea e ha fatto un patto con Lombardo. C'è una sinistra siciliana molto singolare, perché l'UDC e il PD hanno candidato un presidente che, oltre ad andare sui giornali praticamente solo per il fatto di essere gay dichiarato, e questo è un non problema, però viene dal mondo cossuttiano ed è singolare, perché un altro pezzo se n'è andato di sinistra siciliana e sta con Sinistra Libertà, però il candidato di Sinistra Libertà, Fava, è stato seccato al momento della presentazione della lista, non si era trasferito in Sicilia, non aveva la residenza giusta nei giorni precedenti. E la cosa singolare, tanto per dirvi di come stanno le alleanze della Sicilia nelle elezioni regionali, è che il segretario regionale della CGIL siciliana è candidato dove sta Crocetta, cioè il candidato del PD dell'UDC, mentre invece la segretaria regionale della FIOM sta con Sella, sta con dall'altra parte. E allora, tanto è vero che Maurizio Landini, il segretario nazionale della FIOM, ha detto: boh, io non so dove andare e quindi non ci vado a fare la campagna elettorale, perché come faccio a decidere, visto che c'è la CGIL da una parte e la FIOM dall'altra. Quindi è una vicenda, quella dei regionali siciliani, comunque la prendiate, del tutto singolare dal mio punto di vista, come è del tutto pazzesco che praticamente non ce ne siamo occupati, se non perché qualcuno ha tentato di dire: bisognerebbe per esempio abolire lo statuto speciale siciliano. Io l'ho detto più volte, Francesco Merlo lo ha scritto con la sua mano impareggiabile su Repubblica il 6 ottobre. Capite che stiamo parlando di una regione che ha 1900 quasi dirigenti su 17.000 dipendenti e che però ha assunto altre 4.500 persone nel 2011 con Lombardo, c'ha i soliti 27.000 forestali, c'ha 30 dirigenti sopra i 180.000 euro l'anno, 8.000 addetti alla formazione professionale, un bilancio di 27 miliardi di euro sul quale gravano, appunto, come vi ho detto, 17 miliardi di crediti inesigibili ma che vengono vantati come attivo patrimoniale. Quindi stiamo parlando di un enorme problema e che è stato riscoperto in questi ultimi giorni solo perché Grillo, intelligentemente devo dire, con la sua traversata a nuoto ha riattirato l'attenzione. Devo dire che anche su di lui è durata due giorni, perché il suo giro della Sicilia avviene con pochissimi che lo seguono e tutti a dire vabbè, è più o meno un fenomeno da baraccone, come quando arrivasse una commedia davanti spettacolo, perché in Sicilia poi sono abituati a ben altro. Però di fondo sta avvenendo qualche cosa che non stupisce nessuno, e allora abbiamo deciso oggi di sentire non politici ma pezzi di storia, di cultura, di contemporaneità siciliana, che dai loro occhi disincantati, impolitici e per questo più politici, ci aiutino a capire dal loro punto di vista che cosa diavolo sta succedendo. E iniziamo con Ferdinando Shan, che è con noi, che è un fotografo, lo abbiamo già sentito a questi microfoni. A mia opinione è uno dei più strepitosi fotografi mondiali, ma questo conta poco che lo dica io. È nato a Bagheria, esplose negli anni 50 e 60 con delle cose proprio dedicate all'antropologia siciliana, amico di Sciascia, collaboratore di Sciascia e così via, e nelle sue cose scritte, nei suoi libri, scrive quanto questa sicilianità faccia parte di un percorso proprio proiettato verso il mondo. Tanto per capirvi, vi leggo solo qualche riga da autoritratto di un fotografo di Ferdinando Shan. Ci sono ovviamente molti modi di essere siciliani. Siciliani sono anche Ciancimino, Rina, Provenzano, ma io, siciliano quanto di più non si può, ho sempre detestato il sicilianismo, le cose nostre, la visione razzista e violenta delle mafie, un certo familismo soffocante, antisociale, che può sfociare nella pratica criminale. D'altra parte, il più che comprensibile, magari necessario rifiuto in blocco di tante disperanti incrostazioni culturali si rivela spesso inutile, sbagliato, persino esteticamente infruttuoso. Per Sciascia la Sicilia era una grande metafora del mondo. La ragione e la follia, la corda pazza, sono due facce entrambe presenti nella realtà siciliana e sono strumenti acuminatissimi per capire il mondo. L'esperienza della cultura della mafia, per esempio, vissuta per anni sulla pelle, ci rende sensibilissimi ai meccanismi del potere, di ogni potere, che poi siano strumenti altrettanto efficaci per cambiarlo il mondo, ho forti dubbi. Ma sono siciliano, e se in vista c'è una catastrofe, i siciliani hanno l'orecchio fino nel sentirla arrivare, persino quando non avverrà, ma avviene sempre. Ecco, questo è il modo di autopresentarsi come siciliano di Ferdinando Shan, che intanto è qui con noi e lo saluto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, che allegria. Che allegria, poi parole sue sono, come dire. Allora, mi faccia capire un po', Ferdinando, questa vicenda che è in corso, che immagino non sarà in cima alle sue, per così dire, preoccupazioni di interesse, tuttavia, come la vede e come giudica il fatto che l'Italia si volge per l'ennesima volta dall'altra parte rispetto a tutte queste anomalie particolari che avvengono nelle elezioni regionali della sua regione? Ma guardi, no, la cosa in un certo senso più terribile è che tutto questo non è sorprendente per me, non è sorprendente per quella che io ho vissuto personalmente, ma che prima di me parecchie generazioni di siciliani hanno vissuto. Insomma, c'è sempre un problema di rapporti tra la Sicilia e l'Italia. Io ribadisco continuamente che mi sento siciliano e violentemente siciliano, però non posso negare che della Sicilia non sono solo andato via, sono fuggito a gambe levate, ma non ho certo per questo smesso di essere siciliano. Del resto mi considero fortemente italiano anche, persino milanese come Stendhal, che ne dicono quelli che lo fanno misurando il tasso di milanesità del sangue. Quindi dice l'Italia è distratta nei confronti della Sicilia, ma è una novità questa, non mi pare. Cioè, lei, allora dobbiamo ammettere l'idea che non c'è segno di degenerazione di fronte del quale questa distrazione cambi. Ecco, forse ma, questo. Ma guardi, io ho anche un'altra impressione, che non ci sia una speciale degenerazione, nel senso che se noi guardiamo alla vicenda italiana, e per certi versi forse si può fare, insomma, come una vicenda che ha notevoli elementi anche di trasformazione, anche di cammino verso la modernità, allora dice vabbè, ma lì invece c'è stata una degenerazione. Ma se invece guardiamo a questi fenomeni in senso storico, francamente non mi pare che ci sia stata una grande degenerazione, perché se noi leggiamo, che ne so, De Roberto, lasciamo stare Tomasi di Lampedusa, insomma, che ci ha voluto fare credere che esistessero i gattopardi, che erano meglio degli sciacalli che sono subentrati a loro, ma in realtà i gattopardi erano come gli Uzeda, erano come i politici di oggi, erano dei rapinatori che hanno sempre guardato alla Sicilia e ai loro stessi poteri come a luoghi in cui di sfruttamento, come se fosse una miniera a cielo aperto di carattere fisico, economico, morale, dalla quale poi sarebbero dovuti andare via, che avessero dovuto abbandonarla, eccetera. E così uno ha l'impressione che si comportino i politici di oggi. Sono dei lanzichenecchi, insomma. Cioè, quando lei dice che certi dirigenti politici cambiano posizione rovesciandole completamente da un giorno all'altro, che alla sinistra ce n'è che stanno da una parte e chi dall'altra della stessa organizzazione, eccetera, poi questa cosa l'abbiamo chiamata trasformismo a livello nazionale, ma questa è la prassi. Mio padre, che era un pessimista, insomma, credo forse addirittura peggiore di me, diceva sempre: prima di metterti in un corteo, vai a vedere chi è che in testa porta la bandiera, no? E quelli che normalmente portano la bandiera in testa sono dei tipi che portavano un'altra bandiera il giorno prima, eccetera. Quando si parla di Lombardo, di Micichè, eccetera, non è che si parla di movimenti culturali, politici, intellettuali, di competenze, eccetera. No, si parla di gente che dispone, come ne disponevano i signori di una volta, di un certo numero di voti, come allora disponevano di un certo numero di armigeri che mettevano a disposizione degli interessi di questo o di quello o di se stessi a seconda dei momenti, insomma. Si tratta di vedere chi vince come in un torneo di interessi loro, insomma, ai quali tu puoi essere interessato, perché poi magari ti fanno assumere tuo figlio in banca, ti fanno risolvere un problema per un piccolo appalto, eccetera, eccetera. Anche perché il diritto, diciamo, il diritto tuo di cittadino nei confronti delle strutture pubbliche, ma molto spesso anche di quelle private, non è ancora arrivato in Sicilia, ma poi è arrivato in Italia. Questa è la domanda. Ogni tanto mi domando, guarda, i siciliani abbiamo è un destino, tanto per incominciare, essere siciliano ad andare via è stato quasi un sinonimo per secoli. E poi devi essere per forza mafiologo, ti domando, ah, ma la mafia, eccetera. Io normalmente, quando devo parlare di questa cosa che sembra così misteriosa, perché i siciliani, sempre sull'onda ai Tomasi di Lampedusa, amano pensare di essere incomprensibili, insomma, di essere misteriosi, e invece no, sono comprensibili, si capisce, sono gli interessi, esatto. Sono la mancanza di prospettive, di senso della collettività, eccetera. Io racconto sempre che era morta mia nonna, io sono andato in Sicilia e mi hanno detto: bisogna fare il certificato di morte della nonna. Sono andato in municipio, quando il municipio ha aperto, davanti a me allo sportello c'era una sola persona. Mentre io aspetto che questa persona finisca di fare quello che deve fare, mi viene uno e mi chiama, mi dice: signor Scianna, può venire un attimo con me? Io vado con lui e quello mi porta dietro allo sportello. Lo sportello viene chiuso in faccia al signore che era davanti a me, e io scopro che quello lì che stava facendo i certificati era un mio vecchio compagno di scuola, il quale mi dice: ma che fai il superbo? In che senso, dico io? E dice: ma che fai, ti metti in fila allo sportello? Dico: è morta mia nonna, ho bisogno di un certificato. E te lo faccio io, vieni a qui, chiedimi che te lo faccio io. Cioè, il discorso era proprio questo, quello che era un mio diritto mi veniva conferito come un favore. E questo era una cosa che io poi dovevo rendere. Non c'è il senso di quello che è il tuo diritto e di quello che è il tuo ruolo a livello del pubblico. Quindi come si può essere sorpresi se le cose stanno funzionando come funzionano? Poi ci sarebbero da fare anche tanti discorsi. Ma intanto abbiamo fatto questo introduttivo, questo bello spaccato di cui sono grato a Ferdinando Sciano. Poi torniamo con Diego Planeta. Ecco, Diego Planeta è una persona con cui impegno pluridecennale la tradizione del vino, del fare impresa, del cambiare la testa. Ecco, Diego Planeta ha detto: io ho provato a cambiare la testa, la gente, in piccolo ci sono riuscito. Quindi vediamo se c'è un tocco antropologico un po' meno pessimista di quello con cui io condivido abbiamo iniziato con Ferdinando Sciano. Prima, nella confusione della mia lingua, ho confuso Algebris, il nome del fondo che guida Davide Serra, e il nome appunto di Davide Serra, a cui ribadisco la mia stima. Allora, dopo Ferdinando Sciano stiamo parlando di Sicilia. Sono con noi Diego Planeta, che è un imprenditore della famosissima azienda Planeta nell'ambito vinicolo, e Nino Bevilacqua, ingegnere, presidente dell'Ente Porto di Palermo, imprenditore anche lui. Saluto entrambi, buongiorno Diego Planeta. Buongiorno. E buongiorno Nino Bevilacqua, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, Diego Planeta, lei in un'intervista di 2 anni fa, è una storia importantissima, importantissima perché ha iniziato, voglio dire, da giovanissimo, a 18 anni, a mettere mano a un processo di trasformazione del come si produce e si qualifica il vino siciliano, e ne è uscita fuori questa storia meravigliosa, Le Catene Sente Sole di Menfi, che sono la più grande cooperativa agricola d'Europa con 2300 soci, una grande qualificazione della maniera di intervenire tecnicamente sui vitigni, e questa cosa è stata riconosciuta, decenni e decenni di impegno. Lei 2 anni fa in un'intervista a Repubblica disse: mi vergogno di essere siciliano. Abbiamo dimostrato di essere incapaci di amministrarci. Prima eravamo vittime dei latifondi, e va bene. Poi dei Borboni, e va bene. Poi dei Savoia, e va bene. Ma poi basta. Con l'autonomia avremmo dovuto cambiare in meglio, e invece siamo rimasti così come eravamo. Ora che però l'Italia è diventata leghista, questo era 2 anni fa, ognuno si cuoce nel suo brodo. Ecco, questo suo giudizio, che è un giudizio netto, avendo lei detto che ho provato a cambiare la testa dei siciliani, e la dimostrazione è che si può con quello che ha fatto. Come convive col fatto che adesso ci sono queste elezioni regionali di cui l'Italia pare che non gliene freghi nulla, malgrado che ci siano evidenti segni di anomalia totale, Planeta? Che lei che pensa? Ma guardi, io come tanti altri, purtroppo queste elezioni le ignoro, perché sono assolutamente consapevole che tanto non può cambiare nulla da questo punto di vista. Questo però, come le dirò più avanti, non cambia la mia idea che comunque le cose si possano fare in Sicilia senza dipendere dal denaro pubblico. Io mi sono trovato in grande accordo con quanto ha scritto Merlo in quel bellissimo articolo del 6 ottobre e con quanto ha detto poco fa Scianna a proposito dei Gattopardi, dei feudi, eccetera, eccetera. Sarei un po' più cattivo però di questo, perché per quanto riguarda Merlo, vorrei dire, la sua analisi è perfetta, però il rimedio non mi pare tale, perché togliere l'autonomia alla Sicilia potrebbe andare bene se poi questo potere lo delegassimo a chi non dà gli esempi che sta dando in questo momento Roma, Milano e il resto d'Italia. Quindi l'analisi va bene, la soluzione mi lascia molto perplesso. Per quanto riguarda i feudi sarei ancora più cattivo, perché vero è che la Sicilia feudale dominata da feudatari, da pochi feudatari e dalla Chiesa, che ricordiamo deteneva il 30% dell'intero patrimonio agrario siciliano, e almeno era dominata da qualche centinaio di persone che di fatto poi non faceva nulla per creare impresa, per migliorare la vita di tutti, ma si occupava soltanto della difesa dei propri privilegi. Ma oggi la situazione è ancora peggiore, perché se, come correttamente detto da lei, la mano pubblica muove 27 mila miliardi all'anno in Sicilia, in una regione così che ha così poco di imprenditoria privata, vuol dire che questo potere, che era nelle mani di centinaia di persone, di qualche centinaia di persone, oggi è nelle mani di quante persone? Potremmo stabilirlo assieme. Io sarei dell'opinione che alla fine sono meno di 10 le persone che contano e che muovono tutta questa massa di denaro, quindi si è estremizzata questa posizione feudale di un tempo. In queste condizioni cosa si può fare? Si può fare come Scianna e come tanti cari amici miei, che pur amando fortemente la Sicilia, a un certo punto vanno via perché hanno necessità di fare la propria carriera, di potersi esprimere, di vivere in modo più libero. Lei però non se n'è andato. No, non mi sono andato perché intanto quando sono partito io era difficile muoversi, perché non era il mondo di oggi, ma poi perché avevo forti legami e forti affetti, e poi perché avevo l'insegnamento di mio padre, che era alla fine, nonostante fosse nato nel 1890, era un uomo che vedeva, era un postmoderno, vedeva le cose come dovevano andare, aveva messo in piedi già lui un sistema moderno di impresa, e quindi tutta questa somma di motivi mi spinse a non andare via e a rimanere qui. Quando si rimane qui tutto è difficile, però è tutto anche facile. È difficile perché bisogna cambiare la testa delle persone. Cambiare la testa cosa vuol dire? Far capire che non esiste il feudalesimo è finito, che non si può continuare a pensare che tutto sia immobile e immutabile, tutto può essere cambiato. È difficile perché appunto non si hanno quei supporti strutturali che qualunque Stato civile e moderno dovrebbe dare alle imprese, dovrebbe dare alla popolazione. Questo non c'è, e non voglio entrare nel merito, che potrei fare un elenco che non finisce mai più. Però per il resto c'è una popolazione attiva, estremamente onesta, estremamente aperta, collaborativa, piena di fantasia, con la quale si possono costruire tantissime cose, veramente tantissime cose. Io ne ho fatte tante. Mi dispiace di avere perduto tanto del mio tempo all'inizio, proprio perché tutto era veramente in salita. Oggi le cose sono un po' più facili perché si sono create dimensioni di imprese in cui è più facile spingere sull'acceleratore e cambiare. E niente, poi torno a dire, mi piacerebbe vivere nell'efficienza di uno Stato moderno e nel romanticismo e nella fantasia e nella bellezza della Sicilia. Purtroppo la seconda parte c'è, la prima no, ma cosa si può fare? Non si può aver tutto. Allora, Diego Planeta si è impegnato, dice è difficile, si può far cambiare la testa, anche se però la mentalità resta quella vecchia, e la parte pubblica inficia il buono che c'è e rende più difficile, purtroppo, far cambiare la testa, perché sono in pochi poi a dirigere il grande flusso. Questa poi è la grande forza di quella incomprensibilità un po' trasversale alla politica, che è rappresentata da fenomeni come Cuffaro prima, che sta in carcere, l'avete visto uscire per un permesso pochi giorni fa, molto dimagrito, e Lombardo oggi, che è trasversale, che è stato capace lui di determinare da solo la forma politica che ha in Sicilia oggi alle regionali, sia quello che resta del centrodestra, i Musumeci, sia facendo cambiare idea a Micichè due o tre volte, sia dall'altra parte determinando coi suoi uomini l'asse portante dell'alleanza tra PD e UDC. Quindi un Lombardo capace di menare i giochi un po' su tutti i versanti, perché è capo di quei 10, come dice Planeta, che poi dirigono decine di miliardi di euro di fondi. Questo è il punto vero. Allora, vediamo con Bevilacqua un altro punto di vista, perché Bevilacqua, ingegnere a capo dell'ente portuale, dichiarato che quando finisce la sua esperienza nel 2012 scade il suo mandato e non resta, c'è un'intervista sua in mano che dice meglio lasciare se svanisce la passione, e in questa intervista Bevilacqua dichiarava che è molto difficile svolgere un incarico come quello a capo del porto che gli è stato affidato, perché un rapporto inesistente quello con le istituzioni istituzioni politiche, e questo rende impossibile alla Sicilia ovviamente lavorare intorno a ciò su cui dovrebbe fare valore aggiunto e far crescere la sua economia, cioè il mare, i beni culturali e i servizi, e lamenta dall'altra parte questo esodo continuo di giovani che in questi anni si ripropone come il tema dominante della vita culturale siciliana, il fatto che senza futuro lì i giovani migliori se ne vanno. E bevi l'acqua. Allora, è un bilancio molto amaro quello che usciva da questa intervista che ho in mano. Lei diceva però la città va riaccesa. Come si fa contemporaneamente a dire che va riaccesa sulla cultura eccetera eccetera, e dall'altra però lo stesso bilancio che tirava lei è un bilancio così amaro? Ma il bilancio è certamente amaro, è amaro quello che stiamo vedendo in questi giorni. Ci sono delle elezioni politiche regionali dove si va totalmente in controcorrente anche rispetto a quello che è probabilmente il futuro della visione politica nazionale. Oggi si tenta di trovare del nuovo, che è innovazione, poi possiamo dire se è positivo o meno, però si sta cercando di capire che si è arrivato a un punto. Ritengo che probabilmente in Sicilia questo ancora non si è compreso, perché come vediamo bene o male alla fine abbiamo delle aggregazioni che sono fatte dagli stessi partiti e dalle stesse figure, e quindi di innovazione che è lo stimolo per i giovani non penso che ce ne sarà nei prossimi giorni. E purtroppo prendo atto, io sono anche docente universitario, ho fatto parte della mia carriera al Politecnico di Torino, poi per voglia di insegnare anche a Palermo, nella mia terra, sono rientrato, però vedo che tantissimi giovani, compreso anche i miei figli, hanno scelto di studiare fuori Palermo, quindi è un esodo strano, un esodo che è successo 50 anni fa perché non vi erano le facoltà. Oggi ci sono le facoltà, però non ci sono delle regole, non ci sono degli stimoli, non ci sono delle certezze per i giovani, quindi loro vanno via probabilmente senza reali motivazioni. E quindi questo dovrebbe essere un punto di partenza per far sì che oggi coloro che devono gestire questi miliardi, questo sviluppo, possano fare riflessione e possano definire dei programmi. Io ritengo che in questi giorni ciò che più mi dà fastidio, mi dà tristezza, è che da tutti i candidati a Presidente della Regione non è uscito un programma vero, circostanziato, fatto anche da una pagina, però dove si vanno a definire dei percorsi per far sì che questi giovani possano credere a quello che è la nostra terra, la potenzialità della nostra terra, e si possa pensare come risolvere un problema socio-economico che oggi incombe nel nostro territorio, e in particolare i precari, questo modo di essere precario. Ecco, questo è qualcosa che la politica in questi anni non ha voluto, perché è impossibile, non si può, non ha voluto risolvere. Bevi l'acqua, lei crede al fatto, molti adesso stanno gli ascoltatori mandano sms dicendo state parlando poco di Grillo, l'unica vera speranza di cui i giornali tacitano, che sta avendo un enorme successo nel giro dei paesi. Lei crede che Grillo possa avere un buon successo nella Sicilia profonda, che assiste da decenni a questo e dice vediamo un po' se arrivano i fondi, e magari invece adesso ha cambiato idea e non ce ne stiamo rendendo conto come media? Grillo potrà avere buon successo in Sicilia secondo lei? Ma probabilmente potrà avere un successo politico elettorale, ma secondo me anche alla base della politica di Grillo ad oggi non vedo un programma concreto tale da poter dire costruiamo. Una cosa è dire roviniamo, in una situazione disastrosa vediamo di fare un percorso politico, però una cosa invece diversa è quella di dire c'è una situazione disastrosa, vediamo di costruire qualcosa. Su queste priorità e idee nuove. Eccoci qua, mentre riparte This is the End, magari è veramente troppo appropriato rispetto a queste regionali siciliane, una lezione tecnicamente fallita dal punto di vista del suo bilancio, che pure tutti accondiscendiamo a fare in modo che non avvenga così, che non sia certificato così, che la campagna elettorale non abbia avuto come come primo punto intanto il fallimento tecnico del suo bilancio, e poi con questo trasformismo di uomini di Lombardo che hanno dettato le scelte, l'agenda, i candidati dovunque, e poi il resto d'Italia che ha girato la faccia. Allora chiedo a Davide Giacalone. Davide Giacalone scrive sì per Libero, ma ha fondato da mesi un'associazione che si chiama Leali alla Sicilia, ha tentato di metterci la zampa criticando duramente, motivatamente, il trasformismo della politica del sistema lombardiano a destra come a sinistra, e continua a farlo. Chi vuole va sul suo sito e trova tutti i giorni dei comunicati esattamente sull'evoluzione della campagna regionale siciliana. Gli chiedo a lui, che impressione ha avuto di questa specie di distrazione nazionale generale di massa rispetto alla condizione del tutto particolare della Sicilia, e dire che la Sicilia si vantava di essere il laboratorio delle idee politiche d'Italia e delle soluzioni politiche, sarà ancora una volta così oppure è una storia diversa, magari Grillo prende il 30%, lei che dice? Ma guardi, questa storia del laboratorio politico nazionale è una delle mitologie italiane. In realtà la Sicilia in passato sperimentò il milazzismo, cioè la collaborazione fra le forze della sinistra, allora il Partito Comunista, e le forze fasciste. Non fu una grande trovata, diciamo così, di sperimentazione politica, anche se poi ha avuto un qualche successo anche altrove. Quindi non è questo il punto. La cosa impressionante è esattamente quella che lei ha sottolineato. Una regione in sostanziale default tecnico riesce a fare tutta intera una campagna elettorale senza che chi si candida effettivamente a governare la Sicilia punti su questo tema. E perché nessuno punta? Ma perché in realtà sono in qualche modo corresponsabili. La sinistra ha retto fino all'altro ieri il governo lombardo, la destra lo ha creato il governo lombardo, il gruppo che sta diciamo così con il grande sud c'è fisicamente oggi lombardo, anzi per la precisione suo figlio. E la cosa impressionante è che nel mezzo della campagna elettorale chi è che prende la parola e dice guardate che la Sicilia sta andando in bancarotta? L'assessore al bilancio della giunta lombarda. Armao. L'hanno fatto tutto loro, Armao. Esattamente questo. Questo dà l'impressione, diciamo così, di un coma politico, più che di un esito della campagna elettorale. Devo dire che ciò che ha offerto la sinistra, io ho prima riferito in realtà a quella che era una sua osservazione, devo essere onesto, intorno al fatto che quelli della CGIL nazionale hanno detto ma come facciamo ad andare? Qua abbiamo il capo della CGIL da una parte, il capo della FIOM dall'altra, SEL. Cioè anche da parte della sinistra non mi pare che ci sia questa scelta netta rispetto al sistema di compartecipazione, o no? Come mai? No, assolutamente no. Ma intanto ripeto, perché la sinistra del Partito Democratico, cioè il pezzo più consistente, più forte ovviamente della sinistra in Sicilia come in Italia, ha appoggiato Lombardo fino alla fine. Quindi come può quel partito diciamo, prendere le distanze da se medesimo praticamente? I protagonisti di questa operazione sono candidati. E lei quanto dà a Grillo in Sicilia? Guardi, io do moltissimo a Grillo, do moltissimo a Grillo e ritengo che abbia già vinto la sua campagna elettorale, perché naturalmente Grillo non si candida a governare la Sicilia, certo. Così come non si candida a governare nulla. Gli è capitato per disgrazia di governare Parma avrebbe preferito probabilmente non farlo, sì. Esatto. Quindi ha già vinto perché ha fatto una campagna elettorale dinamica, intelligente, penetrante, dimostrando che gli altri sono praticamente in uno stato pietoso, se non comatoso.